si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate fin da adesso a prenotare il vostro intervento, potete commentare quello che sentite, potete raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, insomma le vostre buone notizie. Siamo sempre a caccia di buone notizie. E a proposito, la parola chiave per intervenire e per giocare con noi questa settimana, inviati cercasi, anche l'hashtag che abbiamo scelto su Twitter è ambiente questa settimana. Se nel vostro quartiere ci sono nuove piste ciclabili, finalmente, se siete a conoscenza di un nuovo parco che viene inaugurato, aziende della green economy, tutto quello che volete, avete tempo fino a mercoledì per scriverci alla mail si può fare @radio24.it. Una buona notizia che riguarda l'ambiente, la più bella, sarà chiamata in onda sabato prossimo e sarà raccontata proprio da voi. Adesso riprendiamo a dare un'occhiata sulle pagine dei giornali di oggi. Prima di cominciare con i nostri approfondimenti, andremo a Roma, dove anche il sindaco della capitale Marino ha firmato il manifesto contro le slot machine, e oggi c'è una manifestazione nazionale e tanta gente che si ritroverà nei bar di Roma, quelli che sono senza le macchinette mangiasoldi, per dare solidarietà ai baristi che decidono di rinunciare a questo guadagno per una loro scelta. Non è una crociata anti-slot, ma è interessante capire perché i baristi, che ci hanno a che fare tutti i giorni, decidono di rinunciare a questi guadagni. Tra poco andremo a Roma per questo. Ma adesso, dai giornali di oggi, abbiamo già letto l'intervista a Matacena su Repubblica, a Amedeo Matacena, l'ex parlamentare accusato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, per il quale Scajola si è speso e che ha portato all'arresto proprio di Scajola. Matacena che dice: beh, insomma, io sono a Dubai, non avrei mai voluto per nessuna ragione andare a Beirut. Dunque smentisce un po' il teorema dei magistrati, ma del resto è normale che si difenda così. C'è un'altra intervista sul Libero al PM che ha condotto questa inchiesta, Lombardo, che Libero avanza questa ipotesi: Scajola, soldi, donne e sorprese. La bella moglie di Matacena, Chiara Rizzo, che era in contatto con Scajola, potrebbe essere questo il legame, secondo Libero, cioè l'interessamento, un legame, insomma, tra Scajola e questa signora, la moglie di Matacena. Ma alla domanda diretta del giornalista su questa ipotesi, la risposta del PM Lombardo è: sinceramente non penso che ci sia stato un coinvolgimento sentimentale tra Rizzo e Scajola, c'è indubbiamente un legame molto confidenziale, questo sì, ma non credo si vada oltre. Dunque il PM smentisce che sia una questione di letto, insomma, anzi rincara la dose e dice: secondo me l'aspetto più preoccupante della vicenda è che non ci troviamo di fronte a un meccanismo che si mette in moto solo in relazione alle necessità contingenti di Matacena, cioè la protezione di condannati e il fatto di aiutarli ad andare all'estero. Dice il PM Lombardo: qui parliamo di qualcos'altro, di una struttura in qualche modo ampiamente collaudata. Si riferisce alla stessa che è stata utilizzata anche per Marcello Dell'Utri per portarlo in Libano. Ecco, risponde il magistrato, che poi dice: ci sono le inchieste ancora in corso, non posso dire di più, ma insomma l'ipotesi è che questa cupola, diciamo, agisse per proteggere gente come Matacena, che, lo ricordiamo, secondo i magistrati è un uomo dell''ndrangheta. Ci sarebbe da capire perché aveva tutte queste protezioni nella politica, ma insomma una struttura che ha operato per proteggere vari condannati, vari latitanti. Questo per quanto riguarda il capitolo delle inchieste giudiziarie. Ci sono tante pagine sui giornali di oggi. Adesso cambiamo argomento. Anzi, un'ultima notizia è questa: Gemayel a Scajola, aiuterò Matacena, perché è stata trovata, tra le varie cose, incredibile questa inchiesta, ci sono mille rivoli, una lettera dell'ex presidente libanese rivolta a Scajola, che prometteva aiuto. Lo dice il Corriere della Sera in un articolo di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini: aiuteremo Matacena, gli investigatori sono certi che il mittente della lettera al mio caro Claudio sia proprio l'ex presidente libanese Gemayel. Quindi insomma il massimo massimo, diciamo, di quello che si possa sperare di avere come appoggio in un paese, il presidente. Pensate un po', questa lettera è stata sequestrata a casa di Scajola dopo l'arresto. Ma dicevamo altre notizie. Il caso IKEA, avete saputo di queste manifestazioni, queste tensioni con la polizia davanti all'IKEA per alcuni licenziamenti e i COBAS che si sono messi in azione. Adesso c'è una manifestazione al contrario, il corteo all'IKEA, scrive Dario Di Vico sul Corriere, il corteo anti-COBAS per riprendere a lavorare. Che succede? Che si sono radunati davanti al municipio in piazza Cavalli in 250, hanno chiesto di incontrare il sindaco di Piacenza Paolo Dosi. È nata così la prima manifestazione anti-COBAS che si ricordi. Siamo, ricorda Di Vico, nella Valle della Logistica, quel tratto di Emilia che va da Piacenza e Bologna, nel quale sono insediati i grandi depositi merci delle multinazionali, della grande distribuzione e dell'e-commerce. I capannoni si vedono anche dall'autostrada di questi grandi, come anche quello dell'IKEA, di questi depositi immensi che ci sono. Da giorni davanti allo stabilimento piacentino di Lemose, il centro logistico dell'IKEA, è scontro tra i facchini e la multinazionale svedese. All'origine del conflitto ci sono provvedimenti presi dall'IKEA nei confronti di 33 lavoratori della cooperativa San Martino, nordafricani. Il gruppo si era reso responsabile dell'occupazione di un reparto per difendere un loro collega al quale era stata cambiata la mansione visto che gli era scaduto il patentino di carrellista. Quindi questi 33 dipendenti, nel confronto dei quali sono stati presi dei provvedimenti da parte dell'IKEA, avevano occupato lo stabilimento in solidarietà a un loro collega. Questa è la vicenda. Il COBAS è l'unico organismo presente, chiede il ritiro delle misure aziendali e accusa gli svedesi di ricorrere ad abusi amministrativi, ma il sindaco della città dice che non è così, perché l'ispettorato del lavoro ha esaminato 1200 buste paga e ha detto che è tutto in regola. Da qui la contromanifestazione contro i sindacati per chiedere di poter lavorare da parte di questi 250 lavoratori. Un'altra notizia, sempre il Corriere, è questa: Made in Italy, via i segreti sugli alimenti che importiamo. E questa è una vecchia questione che sta a cuore per esempio alla Coldiretti, che aveva avanzato giustamente il dubbio che dietro alla segretezza dei flussi commerciali delle materie prime alimentari che si importano ci fosse il fatto che aziende italiane nel settore alimentare importano dall'estero materie prime e poi vendono come Made in Italy. E allora la Coldiretti, con il suo presidente Moncalvo, aveva detto non si può fare. Ieri il ministro della salute Lorenzin ha fatto proprio questo: saranno resi pubblici i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall'estero per la produzione alimentare. Finora, ha detto il ministro, una complessa normativa doganale ha impedito l'accessibilità dei dati senza significative ragioni legate alla tutela della riservatezza. Adesso questo non si potrà più fare ed è una buona notizia per il Made in Italy alimentare, che come sapete è una fetta grande, grandissima della nostra economia. Giusto due notizie da altri due giornali che ci portano in altre direzioni. La Padania, con la foto di Matteo Salvini, clandestino è reato. Matteo Salvini apre oggi la campagna referendaria per reintrodurre il reato di clandestinità cancellato dal governo. Invece il Manifesto, Italia-Germania 4-0 è il titolo, e la notizia è questa: il Tribunale di Venezia accetta il ricorso contro la soglia del 4% per le elezioni europee. Come a notizia di ieri, come per il Porcellum, ora la parola passa alla Consulta. Se una sentenza abolisse lo sbarramento, e lo ha già fatto la Corte Suprema tedesca, la nostra rappresentanza al Parlamento di Strasburgo andrebbe rivista. È successo che appunto il Tribunale di Venezia ha accolto un ricorso contro lo sbarramento al 4% per le prossime elezioni europee, perché si dice che mentre per le elezioni nazionali lo sbarramento può servire a evitare la frammentazione, a creare governi più solidi, il Parlamento europeo, che non dà la fiducia a nessun governo, deve essere rappresentativo e quindi la soglia del 4% è illegittima. Dovrà intervenire la Corte Costituzionale e la nostra rappresentanza a Bruxelles potrebbe essere a rischio. Un'ultima notizia, che non c'è sui giornali di oggi, viene da Parma e riguarda il tema dell'inceneritore per il quale il sindaco Pizzolotti aveva fatto campagna elettorale. Sapete la strategia rifiuti zero adottata, cioè promossa da Grillo. Allora, il famoso inceneritore che Pizzarotti non è riuscito a far chiudere, gli è costata la scomunica di Casaleggio per quanto riguarda la militanza del Movimento 5 Stelle. Ecco, da ieri la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva. Ha dato ragione alla IREN, la società che gestisce l'inceneritore, e torto al Comune. Quindi l'inceneritore andrà avanti tranquillamente, continueremo a bruciare rifiuti. Su questo avrebbe ragione, ha ragione secondo me Beppe Grillo, è inutile ed è sbagliato bruciare i rifiuti sono materie prime, tant'è vero che la notizia che vogliamo accoppiare a questa è la notizia che viene da Pechino, perché mentre noi i rifiuti li bruciamo, a Pechino vai con 10 bottiglie di plastica nella stazione della metropolitana e ritiri il biglietto gratis. Quindi sono due modi diversi di utilizzare i rifiuti. 800 24 00 24. Tra poco andremo a Roma per la manifestazione No Slot. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma adesso basta, scendiamo tutti quanti in piazza e accendiamoci la testa. Speranza e la mia uscita di emergenza, se questa corda non si spezza, ci costerà un extra. Sembra strano che noi non ci conosciamo. Sono sempre di più i bar che rinunciano all'azzardo e rinunciano cioè alle macchinette, alle slot machine, alle macchinette mangia soldi, un movimento che sta crescendo. Oggi si danno appuntamento tutti a Roma, una manifestazione, scendono dunque in piazza. Sono diverse le associazioni coinvolte, noi vogliamo dare voce a questi baristi che rinunciano, pensate, a un guadagno anche di 1500 euro al mese. Perché uno dovrebbe rinunciare a questo guadagno? Evidentemente c'è qualche cosa che non va in questa proliferazione. Noi diciamo sempre, non è una campagna contro le slot machine, ma vogliamo capire perché si rinuncia a questo guadagno. Evidentemente c'è qualche cosa che non torna. Noi ne parliamo con Carlo Cefaloni, che è portavoce del movimento nazionale Slot Mob, che è anche un hashtag su Twitter se volete seguire tutte le iniziative. Buongiorno Cefaloni. Buongiorno. Lei si trova tra l'altro in un bar oggi di Roma. Mi trovo qui davanti al bar 09, sì, sulla via Tuscolana, e che è vicino al largo Appio Claudio, dove c'è l'altro bar, American Bar. Quindi sono i due bar che avete scelto oggi per a cui dare solidarietà, sono bar che hanno tolto le slot machine, così? Che non lo hanno fatto proprio entrare, sì. Ora, chiaramente non sono gli unici su Roma, ma emblematicamente abbiamo scelto questi due anche perché c'è un luogo, una piazza dove poter fare un momento di riconoscimento pubblico. Sì. E poi diventa un momento imitativo. Allora, questa settimana, se vuole, le posso... sì, scusi, dico solo una notizia, poi la faccio continuare. Ha firmato il manifesto No Slot anche il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Si chiede, ha detto Marino, il Parlamento intervenga contro il gioco d'azzardo. In realtà sono già intervenute molte regioni, alcuni comuni, con delle leggi sulla distanza minima delle slot machine dai luoghi sensibili, scuole, ospedali, eccetera eccetera. Quando le concessioni attuali scadranno, le nuove concessioni non potranno essere date probabilmente, e molte slot machine, molti slot house potrebbero anche chiudere. Questo è uno scenario futuribile. Nel frattempo, mi scusi, l'ho interrotta, Cefaloni, che cosa stava dicendo? No, dicevo che fondamentalmente la scelta che fanno i baristi è che sono dei piccoli imprenditori, no? Chi è che ogni mattina la mattina va a aprire il latte alla cinesca, non sa come andrà la giornata e quindi deve vivere del suo lavoro, e fa una scelta in cui dice: vedo l'altro e mi sento responsabile. Alcuni ci hanno detto: ho famiglia e siccome non voglio rovinare altre famiglie, compio questa scelta. E allora quello che è importante è dare un messaggio e dire che non è vero che resistere non serve a niente, e si può fare, nel senso che c'è la possibilità di cambiare le cose dai gesti quotidiani. Ora, il dramma che ha segnalato anche il sindaco Marino, aderendo, sì, alla proposta di legge popolare proposta da Lega Autonomie, da Terre di Mezzo, dalla Scuola delle Buone Pratiche, di oltre 600 comuni in Italia, è che le amministrazioni comunali sono senza potere, non hanno sovranità. c'è bisogno di una legge nazionale, perché anche quando si fanno dei regolamenti sì. vengono poi sanzionati dal TAR. Sì, è vero, ci sono stati diversi conflitti anche, e allora bisogna sì. riconquistarlo. Anche a Milano ci sono stati, c'è un conflitto tra i regolamenti del comune e poi i ricorsi che fanno i gestori, a volte in alcuni casi vengono vinti, e quindi voi dite c'è bisogno di una legge nazionale. Io voglio precisare solo un aspetto, cioè diciamo sulla legittimità dei sindaci ad intervenire su questo, ad incentivare, perché qualcuno potrebbe dire ma è il libero mercato, ognuno faccia quello che vuole, se uno vuole giocare gioca, se non vuole giocare non gioca. A parte che non è così, perché i medici ci segnalano che c'è un vero e proprio fenomeno della ludopatia, una malattia, insomma un gioco patologico. Ma poi voglio dire, se vediamo chiudere librerie, cinema, teatri che hanno delle economie a monte e non hanno effetti collaterali a valle perché non fanno male a nessuno, non vedo perché un sindaco non dovrebbe incentivare l'apertura di una libreria e disincentivare quella di una slot house in pieno centro. Questo mi sembra nella legittimità di un'amministrazione comunale. Detto questo, voi chiedete una legge nazionale, che è anche la petizione che va girando. Sono state già depositate, se non ricordo male, tempo fa, un primo step di questa legge di iniziativa popolare, no Cefaloni? Sì, sì, è già stata presentata alla Camera al Presidente Laura Boldrini, alla quale ha detto: io stesso non ho potere di poterla portare in aula, ma c'è bisogno che voi vi muoviate per poter sostenere quei deputati e senatori pochi che ci sono, che vogliono mettere un argine a questo fenomeno, che fondamentalmente invece è incentivato, sì. perché le leggi attuali stanno incentivando il gioco d'azzardo e ci sono fortissimi interessi di multinazionali legate a questo interesse e che traggono profitto da molte volte proprio della dispersione e anche interesse allora, dello Stato, come lei ha detto, è sul concetto della libertà di iniziativa privata, quindi è un tema fortemente costituzionale. Se andiamo all'origine e vediamo quali sono le società coinvolte che coinvolgono le società primarie anche in Italia, ci rendiamo conto che è un discorso culturale ampio. Ma noi quello che vogliamo porre in evidenza non è la sanzione, non vuole essere un giudizio nei confronti degli altri baristi, lontanamente, ma creare appunto questo aspetto in cui noi riconosciamo un fatto positivo, riconosciamo un fatto di responsabilità sociale, e da lì ricominciare, il premio, non solamente noi stiamo vedendo il dilagare della corruzione, il problema che ci fa star male ogni giorno e si dà un messaggio negativo, allora uno può vivere in maniera dissociata e dire vabbè lasciamo perdere, nulla può cambiare, il fatto di riconoscere un fatto vuol dire cambiare già fin d'ora, e quindi forse arrivare poi a una normativa che più delle volte viene fermata in Parlamento in una notte, perché ci sono evidentemente accordi trasversali che sono molto più forti. Ma è vero che per i baristi c'è anche il problema a voler rinunciare delle pesanti penali che si devono pagare ai concessionari. A questo proposito mi risulta che recentemente la SNAI, almeno in Lombardia, abbia alleggerito questa discorso delle penali, togliendo le penali al barista che rinuncia e imponendo semplicemente di non riadottare slot machine di altre concessionari nel giro di un anno o due, una cosa del genere. Però questo tema c'è il barista che consapevolmente non vuole più la slot machine nel suo bar, ha delle difficoltà a rinunciare, e anche qui forse voi volete intervenire per sostenerli. Ma noi in questo momento quello che stiamo facendo è che sosteniamo già tutte le realtà presenti sul territorio, come la campagna Mettiamoci in Gioco, i circoli No Slot, il movimento No Slot, ci sono tante realtà che già si stanno muovendo, si sono mosse per dare assistenza legale, per esempio ai baristi che fanno questa scelta. Lei comprenderà che chiunque di noi va a sottoscrivere un contratto non vede tutte quante le clausole, no? Si fida fondamentalmente, questo è uno dei problemi che esiste, va poi sostenuto nel momento in cui fa una scelta diversa e quindi deve pagare delle penali. Consideri, come ha detto lei, appunto, che ogni macchinetta slot e poi tutto quello che si porta appresso, perché insieme a quello magari lo stesso concessionario gli propone altri tipi di gioco d'azzardo, ci sono altre agevolazioni, quindi è veramente una scelta costosissima che uno va a fare, soprattutto anche come problemi, però va sostenuto a livello di assistenza legale, di consulenza legale, amministrativa, e già queste sono reti già attive. Molti ci chiedono questo e molti ci chiedono di essere aiutati. Io non parlerei di ludopatia, perché ludopatia come termine ricorda il gioco. Questo non è un gioco, si crea un problema di ossessione compulsiva, di una malattia gravissima che ha bisogno di interventi complessi dal punto di vista proprio neurologico, dal punto di vista di gruppi di mutuo aiuto, insomma c'è bisogno di un grande intervento e di un grande intervento dal punto di vista delle strutture sanitarie che più delle volte non ce la fanno. E va bene, grazie a Carlo Cefaloni, portavoce del Movimento Nazionale Slot Mob, oggi appuntamento a Roma, abbiamo sentito in due bar della capitale per dare solidarietà ai baristi che rinunciano alle slot machine. 800 24 00 24, siete in un bar in questo momento? Oppure ci state per andare? Ne siete appena usciti? C'era qualcuno che stava giocando alle slot? Ne avete parlato con il vostro barista? Conoscete un bar dove non si gioca più con le macchinette? Chiamateci 800 24 0024. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno anche a Carlo Gabardini, ciao Carlo. Buongiorno, ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon sabato. È passata bene la tua settimana? Che cosa ha reso bella la tua settimana? Beh, direi che non posso mentire, direi che la cosa che ha reso molto bella la mia settimana è il nuovo video che ho fatto dopo Marmellata e Nutella. Il capitolo 2, esatto, che si chiama Malato, punto di domanda, io sto benissimo. Diciamo in parte anche in risposta alle parole di Carlo Taormina, dette sempre in questa radio, sì. Sulla questione che l'omosessualità sia una malattia, diciamo è chiaramente una buffonata, nel senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità da più di 20 anni ha detto che non è assolutamente una malattia essere omosessuale. Diciamo che io in questo video quello che dico va bene, se proprio insistete, se volete proprio dire che questa sia una malattia, però allora voglio anche l'agevolazione, diciamo, del fatto che sia una malattia e non solamente la paura. Quindi voglio i posti riservati sull'autobus. Riservati ai ricchioni, voglio non pagare il ticket. Cattano le risate anche sul video. Esatto. Senti, Carlo, tra l'altro ringrazio anche Giuseppe Cruciani che ha fatto sentire ben due pezzi di video durante la trasmissione La Zanzara, e gliene sono grato. Senti, ma lo sai che a Napoli si farà la festa della Nutella? Sì, ho visto. Forse. Mi sembra una cosa bellissima. Ma lo fanno in tuo onore? Non lo so, direi che la scelta del testimonial è straordinaria, quindi è perfetta, nel senso che, diciamo, mica... è dei nostri, quindi insomma sono assolutamente, mi sembra un'ottima, ma a questo punto De Magistris si deve chiamare per forza, ma io ci vado molto volentieri, ci vado di corsa, anche perché il video sta andando benissimo, e ne sono molto contento. Dimmi no, perché quella iniziativa nasce credo per festeggiare i 50 anni della Nutella, con un grande evento con Mica a Napoli, però a questo punto io dico, beh, insomma, se la festa della Nutella deve essere, che sia anche con Carlo Gabardini, giusto. Finiamo ma tanto ne abbiamo parlato anche a Perugia settimana scorsa, ero a Perugia, come sapete, perché grazie anche al permesso di Alessio trasmettevo da là, e lì ero a parlare esattamente di questo, cioè di comunicazione LGBT, e c'erano anche Anna Maria Testa e l'ufficio marketing di Ikea che mi dicevano: ma tu dovresti assolutamente sentirli quelli di Ferrero e di Nutella, anche perché loro in realtà non si sono fatti, dopo il video Marmellata e Nutella, non si sono fatti sentire, però fecero quella cosa durante la campagna del 1° aprile, dove mandarono in giro una foto in un vasetto di Nutella con su scritto "Oggi Marmellata", quindi insomma era chiaramente un endorsement, diciamo, perlomeno. Senti Carlo, prima di ridere un po' e di scherzare anche con le tue notizie, ci ha chiamato un ascoltatore particolare. Ma secondo me è meglio l'ascoltatore. Poi la mia vera notizia è questa del video che ma questa telefonata vorrei farla, certo, perché facciamo una telefonata, sono molto d'accordo. L'avvocato Candido, difensore di Chiara Rizzo, ci ha chiamato. Buongiorno. Buongiorno. Perché io ho letto notizie che riguardano il caso Matascena, ci sono molte ricostruzioni sui giornali. Cosa voleva dire? Allora, io ho ascoltato stamattina la vostra rassegna stampa, in particolare, se non sbaglio, sul Libero, si faceva riferimento a non meglio precisati rapporti, diciamo, tra la signora Rizzo e l'onorevole Scajola. Ora, questa è una cosa che io ritengo assolutamente spiacevole, ed è frutto di un giornalismo, diciamo, che non condivido molto, perché se si fanno questi... Mi fa dire solo, scusi, una cosa, avvocato, la foto che ha scelto Libero, le due foto, c'è La signora Rizzo ritratta in una foto con un sorriso e una posa quasi, diciamo, da fotomodella, e di fianco Scajola con l'occhio stralunato che guarda. Sono due foto diverse però messe a fianco, e il titolo è Soldi, donne e sorprese. Quindi chiaro, si adombra questa cosa qua, che lei smentisce, che lei smentisce. Io lo smentisco perché evidentemente Libero, così come credo tutti i giornalisti, avranno in mano l'ordinanza che hanno letto, dalla quale semmai può trasparire un rapporto affettuosissimo tra la signora Rizzo e suo marito. Ora, questo è un momento drammatico, un momento difficile, un momento in cui vengono coinvolti anche affetti, ci sono di mezzo dei figli minorenni, e francamente una vicenda così complessa, che ha degli aspetti certamente di rilevanza mediatica, ma che debba essere così confinata in un aspetto che quantomeno allo stato degli atti io non ho parlato. Guardi, però scusi, non vorrei fare il suo lavoro, però questa ipotesi potrebbe anche alleggerire il tutto, perché uno potrebbe dire Scajola si è esposto per una questione sentimentale, invece il sospetto nelle procure è che si sia esposto per una, proprio per una protezione politica, la moglie di un condannato, e quindi l'ipotesi è più grave questa che non lo scambio sentimentale. Io capisco che lei questo non è esattamente così. Adesso stiamo entrando nel merito della vicenda. Io francamente non credo che quelle telefonate e quelle intercettazioni vadano interpretate nel senso che allo stato risulta così come interpretato dalla procura o dal GIP. Poi vedremo, ci sono i difensori, ci saranno altri elementi, però abbiamo solo gli elementi dell'accusa. Però dico, né francamente è questo il luogo e il momento per discutere del merito del... Vabbè, lei ha chiamato solo per escludere questa cosa. Va bene, grazie avvocato, grazie. Ma la signora è all'estero ancora, no? Si trova... Io ieri ho mandato un comunicato all'ANSA e ho comunicato che la signora domani sera rientrerà e spontaneamente si presenterà ai magistrati. Ah, benissimo, benissimo. Grazie, buona giornata. Arrivederci. No, questa dovevamo farla sentire. Beh, mi sembra bellissima. E poi le smentite in diretta sono sempre... Quindi smentisce il rapporto. Ma io penso che si parla di mafia, si parla di un sacco di cose anche gravissime, però perlomeno smentiamo il fatto. Esatto, mi sembra la cosa minore. Cioè, io non mi sarei preoccupato di smentire questo. Più che altro tutto il resto. Vabbè, volevo anche smentire che io non sono un falso magro. Ecco, a buon conto, no, nel caso, così che uno non lo sapesse. Vabbè Carlo, però adesso chiudiamo un po' in bellezza. Un po' di giorni fa si è visto su Twitter uno strano tweet, appunto, composto di lettere, di una sequenza apparentemente incomprensibile di lettere, segni, tutti uno diverso dall'altro, e venivano proprio dal Twitter ufficiale, dall'account Twitter ufficiale della NSA, la National Security Agency, quella, diciamo, ascesa agli onori della cronaca per lo scandalo del Datagate, quindi una sorta di CIA, e all'inizio io ho visto questo messaggino, ho detto ma chi è che è ubriaco dentro la NSA? Nel senso che a me capita di twittare a volte, diciamo, perché o inavvertitamente il mio telefonino twitta da solo, oppure magari perché una birretta di troppo si infila dentro il telefonino e twitta da solo, e twitto delle virgole e la gente mi fa domande tipo cosa significano tre virgole e tre punti. Invece questo tweet qui era esattamente, non era un ubriaco, era un tweet da crittografare, cioè si trattava di crittografia, e esattamente diceva: vuoi sapere cosa vuol dire lavorare alla NSA? E in qualche modo comunicava che ogni lunedì la NSA pubblicherà su Twitter informazioni sui requisiti che un buon cittadino americano deve rispettare per aspirare a un posto di lavoro presso l'agenzia. Quindi è una sorta di test. Reclutement. Esatto, è una sorta di esatto come hai detto tu, che adesso la mattina presto mi gira la lingua in bocca a dire queste parole tra R e L, cose pasticci. E mi è sembrato un modo, diciamo, anche simpatico dell'NSA, che in questo momento non gode certo di buona fama, e quindi Twitter sta diventando il veicolo attraverso il quale tutti cercano di ripulirsi la fame, la faccia. Ieri Renzi ha twittato la busta, il cedolino per gli famosi 80 euro. Cioè, vale solo Twitter. Guarda, ho un'altra notizia di Twitter che a questo punto dico rapidamente. Secondi. Addirittura le elezioni politiche con Twitter. Cioè, ci si sta chiedendo, ma il social network è attendibile? Questo è sempre per la mia rubrica, a cosa serve Twitter? Pare che potrebbe servire a capire come vanno le elezioni realmente. Per fortuna non è che le nostre prossime elezioni europee verranno fatte su Twitter, ma l'IMT di Lucca ha fatto un'indagine sui tweet digitati dagli utenti durante le elezioni del 2013, e con ovviamente un algoritmo molto preciso è venuto fuori che effettivamente sarebbe venuto fuori lo stesso identico risultato, ovvero con il Movimento 5 Stelle e il PD alla pari, la rimonta del PDL e il crollo di Scelta Civica. Torna tutto 800 24 00 24, giornale radio tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. I'm your biggest fan, I follow you down. molti ieri paparazzi ad attendere Silvio Berlusconi alla prima giornata dei servizi sociali a Cesano Boscone. Foto, commenti, come è normale che sia. Al Jazeera c'era anche. È giusto, no? Nel senso che andava ad assistere degli anziani. È bello vedere tanta gente che si occupa degli anziani. Erano lì tutti a preoccuparsi degli anziani. Sì, proprio il centro dell'attenzione era gli anziani, Cesano Boscone, gli malati di Alzheimer. Paparazzi di Lady Gaga, canzone del 2009. Era il vostro Si può fare musica di oggi. E ce lo segnalava la nostra ascoltatrice Noemi Simonetti. Ma è dedicata a Razzi questa, è Paparazzi nel senso dell'onorevole Razzi? L'hai capito? Ah, adesso l'ho capito. Antiliter, tra l'altro, perché l'ha fatta prima Lady Gaga questa canzone, di quando Razzi, diciamo, è assunto alle cronache. Continuate a segnalarci le vostre canzoni, il vostro Si può fare in musica, dove vi pare, sui social network. Ricordiamo i nostri contatti su Twitter, @ si può fare 24. Il mio è @ Carlo Gabardini. Il mio è Tale Maurizi. Poi siamo anche su Facebook, Si può fare. Io ho anche un canale 24, YouTube, insomma. Volendo, ecco. Sì? Sì, è il canale YouTube dove c'è il video. Malato, io sto benissimo, è sul mio canale YouTube. E così abbiamo. Che si chiama Carlo Gabardini. È abbastanza semplice. A proposito, l'hai fatta la foto Bring Back Our Girls con l'hashtag su Twitter? L'hanno fatta tutti i VIP. Non sono un VIP. No, non l'ho fatta, ma trovo che sia un'operazione straordinaria. Molto giusta, corretta, quindi lo farò. È semplicemente che sono più ignorante in materia, quindi non mi sento titolato per farlo. E quindi. Lo faccio sulla gaitudine, lo faccio meno su cose che conosco meno, però è una roba doverosa. Posso dare una notizia che mi riguarda, che riguarda la mia città d'origine, Pisa? Certo. Ti ricordi, abbiamo parlato della Movida? Sì. In vari modi, insomma, avevo compreso l'ultima volta il premio al locale Buena Movida a Genova. C'è questo problema ogni volta che ritorna la bella stagione e purtroppo c'è questa notizia che mi riempie di mestizia. Stop alle birre dopo le 22. All'aperto a Pisa e soprattutto sulle spallette dell'Arno. Da noi passa il fiume Arno. In più sta arrivando l'estate, la gente si siede, sta arrivando l'estate. Alle 10 uno cosa fa? È una delle poche soddisfazioni della vita che rimangono. E hanno pensato, il prefetto, è una follia secondo me, di una delle tante ordinanze che ci sono. Sembra molto molto pericoloso se iniziamo così. Nel senso, per cambiare il rumore, allora dopo le 10 non si può bere una birra. E uno cosa le fa? Cosa fa dopo le 10 da Pisa? Prende la macchina e va a Milano, probabilmente. Sì, o a Livorno. Meglio allora quello che ha proposto il consigliere comunale del PD a Roma, i militari per presidiare le zone della Movida. Cioè, se ci sono degli eccessi intervenga la polizia e i militari, se non ci sono degli eccessi che si consenta alla gente di bersi la birretta la sera all'aperto. Pensavo, no, i militari che loro possono dopo le 22, mi sembrava interessante. Poi tu hai detto che uno, io ho detto va a Milano, se ti prendi tutte le responsabilità tu da toscano e da pisano a dire se uno ha voglia di una birra un pisano va a Livorno, l'hai detto tu, eh? No, perché è importante questo, adesso chiameranno secondo me. Sentiamo un paio di ascoltatori, va, cominciamo con Alberto Davarese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Naturalmente, tra tante notizie negative che sento da stamattina, sto viaggiando dalle 6, ne voglio mettere qualcuno positivo. Bravo. Che mi ha dato molta soddisfazione, quello che ho fatto questa settimana che mi ha dato molta soddisfazione. Benissimo. Ottimo. Cosa? Appartengo all'associazione Slow Food, sono di Varese. Mm-hmm. E questa settimana mi occupo per passione, per convinzione, di sementi antiche, di antiche coltivazioni. Ah, ce ne siamo occupati anche noi. Ne abbiamo parlato spessissimo noi. Con inviati cercasi, ecco. Alberto, benissimo. Bene, cosa ha fatto? Questa settimana un'azienda, una piccola azienda agricola in provincia di Varese, con la mia collaborazione, abbiamo seminato un mais antico catalogato 1950 che ci riporta indietro da tanti anni con un prodotto di qualità. E naturalmente controcorrente rispetto alla globalizzazione, alla standardizzazione delle colture che sono la nostra. Questo sarebbe il vero bello. Expo, il vero nutrire il pianeta, dovrebbe essere cose così. Cioè, ognuno con i propri semini. Ma quali sono le particolarità di questo grano? Che ha una maturazione precoce e di colore rosso ed ha una caratteristica essenziale per fare un'ottima farina di polenta oppure un fioretto per fare dei prodotti con il mais. Meraviglioso. Perfetto. Una Alberto. Cosa che vi voglio dire, il contadino era contentissimo, c'era una soddisfazione notevole perché abbiamo fatto un'operazione che ci riporta ai tempi quando questi mais sono stati completamente smarriti e persi per un fatto naturalmente conseguente all'abbandono delle colture. Adesso c'è un ritorno a questo. questo, e settimana prossima sì. ne semineremo un altro con un'altra ragazza che ha un'azienda agricola che coltiva, che ha cominciato, una ragazza giovane, coltiveremo un altro, ma è sempre locale, rimpiantandolo di nuovo, e naturalmente sarà una soddisfazione enorme per zona? Tutti, soprattutto per chi Alberto, si occupa di queste cose. Dove lo farete questa cosa qua la prossima volta? Questa la prossima settimana, sempre in provincia di Varese, esattamente vicino a Ispra. E sono bravi, sempre dei mais con delle qualità migliori, suppongo, di quelli dei mais che si coltivano solitamente. È un mais piccolo che ha naturalmente tutto questo verrà messo a disposizione della stampa. Di ce, ne mandi un po', ce ne mandi un po' di questo mais, così lo assaggiamo anche noi. Grazie Alberto. Mille, arrivederci. Andiamo a Napoli. Walter, buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia è una testimonianza brevissima sul discorso della ludopatia, sì. Perché ho avuto diverse esperienze, insomma, di persone che hanno avuto questa difficoltà, ma soprattutto non so se è stato già trattato come argomento il fatto che spesso e volentieri non è una cosa che dipende soltanto dagli esercenti e quindi dalla necessità trarre un profitto da queste cose, ma spesso e volentieri viene imposto, tant'è che un mio caro amico esercente di un bar che è sempre stato contrario a questo fatto, gli è stato, insomma, adesso ce ne ha ben 5 di queste slot, perché in realtà l'organizzazione, insomma, non di persone proprio perfettamente... Cioè lei sta parlando della criminalità, sta parlando, Walter, di chi sta parlando? Della criminalità, di cose illegali? Sì, sto parlando della criminalità. Cioè un suo amico barista gli è stato imposto di avere le slot dalla criminalità. Lui ha tentato di poi eliminare nuovamente le macchinette, gli è stato distrutto, gli è stato sfasciato il bar, ok? E conseguentemente adesso lui si occupa di un'altra attività, perché non ha voluto aderire. Quindi ha chiuso il bar. Ha dato via la gestione del bar, ha rinunciato. Ha dato via la gestione del bar, che adesso, insomma, chiaramente è un bar diretto da altre persone, cioè, con tante slot all'interno. Allora, ha fatto denuncia? Come? Ha fatto la denuncia? Non so, sì, ha fatto una denuncia, era qui che volevo arrivare, quindi a un certo punto il discorso si sposta sulle istituzioni. Io non so fino a che punto lo Stato ha interesse poi a tutelare questo tipo di persone che effettivamente si ribellano, perché poi, insomma, il profitto che ne trae lo Stato... Ha ragione Walter, grazie tra l'altro per questo intervento. Ne abbiamo avuto una dimostrazione alla fine dell'anno, quando il famoso emendamento che penalizzava i comuni che stavano mettendo dei limiti alle slot ha reso chiaro a tutti il conflitto di interessi. Lo Stato ci guadagna e non le vuole limitare il proliferare delle slot machine, non vuol dare una mano a chi sta rinunciando in favore di bar, diciamo, come vogliamo dire, meno ingolfati, meno inquinati anche da questa roba che ha veramente invaso le nostre città. 800 24 00 24, traffico. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, sentiamo un altro ascoltatore al numero verde, Stefano, che ci chiama da Cesena. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Chiamavo per la questione della problematica relativa alla ludopatia e volevo sì. segnalare un'incongruenza. Capisco che lo Stato abbia un enorme interesse economico nel poter diffondere al più queste macchinette, però ritengo che debba giocare con un equilibrio molto delicato, ossia è giusto che lo Stato organizzi il gioco, lo renda lecito e che comunque abbia un interesse economico, altresì giusto che proprio lo Stato tuteli gli interessi delle persone, delle fasce deboli e soprattutto dei minorenni, evitando che queste persone entrino in contatto con le macchinette, comunque con le slot machine, o comunque che entrino in contatto in maniera consapevole. È un difficile conflitto di interessi, diciamo. Esattamente. Nel decreto Balduzzi era prevista una norma in base al quale il Ministero delle Finanze doveva, entro 6 mesi dall'approvazione della legge, dalla conversione quindi del decreto, emanare delle normative tecniche cogenti che impedissero ai minorenni di entrare in contatto con questi giochi, ok? Quindi di entrare nelle varie sale slot, di poter quindi giocare con questi apparecchi, cosa che ancora non ha fatto. Quindi c'è un'incongruenza totale. Negli altri paesi mi risulta che chi vuole giocare, e a San Marino è così, ed è un paese straniero, quindi poco distante da dove abito io, mi risulta che se tu vuoi giocare devi registrarti prima di giocare. Ci hanno venduto una tessera sanitaria che doveva contenere dei dati specifici della nostra salute. Questo potrebbe essere. Ma in che senso registrarsi? Registrarsi anche per giocare alle slot machine? Assolutamente sì. Sono situati in posti dedicati e identificati. Sì, Stefano, il punto è che se si vuole si possono trovare tanti metodi per limitare. Lei ha citato Balduzzi, il governo Monti ci aveva provato ed è l'unica, credo, normativa che in qualche modo è entrata in funzione, poi depotenziata, ed è lo stesso concetto su cui si stanno muovendo diverse regioni, quello di mettere delle distanze, no? tra le scuole eccetera, eccetera. I luoghi dei minori. E il punto è quello, il conflitto di interessi, lo Stato che ci guadagna dalle slot machine e per ora non ha fatto nulla per mettere un freno, per limitare, per regolamentare quantomeno questo fenomeno che è esploso, basta guardarsi in giro nei nostri quartieri. Adesso però parliamo di calcio e ultra, perché è stata una settimana, molte notizie su questo, eccetera. Una delle cose interessanti a livello di proposte è stata fatta è quella, ha detto Renzi, la sicurezza negli stadi la dovranno pagare le società di calcio. È una proposta, poi naturalmente Renzi fa un annuncio al minuto, quindi è difficile stare dietro. Poi però anche in ottica di spending review, voglio dire, si è visto che costa tantissimo allo Stato quello, uno dice, ma qua ci sono delle società che ci guadagnano un sacco di soldi, com'è che noi dobbiamo garantire questa cosa? Potrebbe convenire, c'è una convenienza anche per lo Stato. Questa cosa qua è stata fatta, credo, in Uruguay, anzi adesso chiamiamo anche i nostri ascoltatori che ne sanno qualcosa, dall'Uruguay soprattutto, perché è misteriosa questa notizia dall'Uruguay. No, il presidente Mujica ha detto qualche settimana fa proprio questo: non paghiamo più le spese per la sicurezza negli stadi. È successo un casino, hanno sospeso il campionato per un paio di giornate, poi il campionato è ripreso, comunque si può fare. Ecco, questa era la notizia. Noi però adesso ne vogliamo parlare andando a Taranto. Put your flags up in the sky, in the sky. Non lo so se lo conosci, Carlo, è l'inno dei mondiali di calcio. No che non lo conosco, sono una delle prime volte che si sente, forse. We Are One di Pitbull, canta credo anche Jennifer Lopez, mi dicono qua dentro. Ma non è male, eccola. Dobbiamo iniziare ad abituarci, io penso. Lo sentiremo giusto, tra giugno e luglio, lo sentiremo in continuazione. Avevamo annunciato una notizia che riguarda Taranto, perché si sperimenta in questa società calcistica che attualmente non vive una stagione di altissimo livello sportivo, perché sta un po' in basso nel ranking, una modalità di gestione diversa dove i tifosi sono protagonisti addirittura della gestione della società. Ne parliamo con Gianluca Sostegno, che è vicepresidente della Fondazione Taras. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Buongiorno. Fondazione Sostegno, che ruolo ha, Fondazione Taras Sostegno, che ruolo ha la fondazione? Cioè siete sostanzialmente, avete rilevato la società dopo un fallimento? No, in realtà nel marzo del 2012 abbiamo costituito un'associazione di promozione sociale denominata appunto Fondazione Taras 706 avanti Cristo, sì, che in quel momento voleva essere una sorta di exit strategy per quella che era l'allora situazione societaria del Taranto, che era una situazione negativa, diciamo. Beh sì, perché c'era una presidenza che non garantiva più il sostentamento economico, nonostante una squadra che sul campo stava lottando e conquistando la Serie B, perché allora militavamo in Lega Pro. Sulla base delle normative attuali vigenti in Lega Pro, in caso di mancate retribuzioni subentrano dei punti di penalizzazione, per cui il Taranto Calcio, pur avendo vinto il campionato sul campo, sì, si è ritrovata per effetto di queste penalizzazioni al secondo. Vabbè, adesso però non andiamo a rivangare queste questioni che sono anche diciamo interessanti per i tifosi, ma del Taranto, ma il punto è un altro. Allora, 32 soci originari, 1000 euro a testa, avete rilevato la società, mi dica se sto sbagliando qualcosa, poi va avanti lei. La società in poco tempo ha raggiunto quota 500 soci e si è iscritta al campionato di Serie D grazie a questi tifosi soci. Sì, no, il problema è esattamente quello, nasce da quello che le stavo dicendo prima, nel senso che la proprietà all'epoca, tra mille bugie e depistazioni, chiaramente continuava a sostenere che non c'erano problemi, continuava a garantire anche l'iscrizione al campionato di Lega, sì, Pro. Però non ci parli tanto degli errori della società che sono legittimi, no, ma non ci interessa. Ci interessa quello che avete fatto voi, sostegno. Nasce da lì l'esperienza adesso. Ma cosa nasce? Ci spieghi che cosa nasce di nuovo? Quindi all'epoca abbiamo costituito questo supporter trust e nel momento in cui poi di fatto la società non è stata in grado di iscrivere la società in Lega Pro, a quel punto siamo intervenuti noi, nel senso che abbiamo in qualche modo tentato di coalizzare attorno alla fondazione tutta una serie di imprenditori, per cui abbiamo anticipato i tempi e abbiamo noi costituito una società di calcio che, sì, è l'attuale Taranto Football Club, che poi si è avvalso del lodo Petrucci, quindi iscrivendosi in Serie D, grazie anche al concreto aiuto fornito da tanti imprenditori che sono subentrati nella società che noi come tifosi abbiamo costituito. Ecco, come vede lei da tifoso, però che sta sperimentando a Taranto un modello di gestione partecipativa, partecipata da parte dei tifosi proprio della società, tutto quello che è successo questa settimana, le cose che si sono dette di nuovo su quello che è accaduto a Roma, gli scontri fuori dallo stadio, va bene, però che riguardano il tifo organizzato, che sappiamo le società sostanzialmente consentono, se non avallano, in qualche caso anche appoggiano. Cioè, il vostro modello può essere una chiave di volta, cioè vedere tutto in modo nuovo, con più senso anche di responsabilità dei tifosi che partecipano alla gestione addirittura della società. Io credo che il futuro del calcio sia esattamente quello che stiamo sperimentando a Taranto da 2 anni a questa parte. La partecipazione diretta dei tifosi nella gestione della società è importante, è fondamentale. Diciamo che responsabilizza tutti e porta in primo piano la componente essenziale del calcio, che sono rappresentata proprio dai tifosi. I tifosi sono l'essenza, l'anima del calcio. Probabilmente con una maggiore partecipazione, con un maggiore coinvolgimento dei tifosi all'interno delle società di calcio, nel management, proprio nella gestione delle società, molte problematiche che oggi viviamo certamente non esisterebbero. Senta, cosa ne pensa di questa proposta di Renzi di far pagare alle società la gestione dell'ordine pubblico? C'è un problema dietro di chi è la proprietà di questi stadi, giustamente, perché se gli stadi sono pubblici si pone il problema di come far pagare a un privato la sicurezza, però il tema ci potrebbe essere, no? Ma guardate che secondo me è un falso problema, perché già oggi i buoni costi della sicurezza sono stati scaricati sulle società, la polizia sostanzialmente sta al di fuori, per cui già le società tramite onerosi costi di steward le società gestiscono insomma l'ordine all'interno degli stadi. Ripeto, occorrerebbe vedere la problematica da un'ottica ben diversa, che non è certamente quella di chi è comodamente seduto in poltrona e magari non ha mai visto una partita di calcio. mi scusi, sono quello stupido dei due, non sono il giornalista, le volevo fare una domanda. Ma si riesce a mantenere, diciamo, una sorta di lucidità in quanto tifosi a gestire la società? Perché di solito i tifosi sono sempre contro la propria società, o comunque se si sente parlare i tifosi, ognuno, diciamo, ha la propria ricetta, sono tutti un po' allenatori, dicono quel giocatore è bravissimo, quello per niente, quello bisogna mandarlo via, quello bisogna pagarlo di meno. Cioè, mi chiedo se si riesce a mantenere una lucidità. A fare il doppio ruolo, sì. Ah, esatto, da tifosi e da dirigenti. Ma guardi, assolutamente sì. Noi oggi nel Taranto Football Club deteniamo il 18% delle quote, abbiamo un consigliere di amministrazione su tre all'interno della società e abbiamo addirittura il controllo del collegio sindacale. Questo ci permette di esprimere tutta una serie di valutazioni, anche critiche sull'operato della società, che viceversa non potremmo fare. Questa, certo, è sicuramente una evoluzione del tifoso. Ma quindi comprate Messi, direi, quest'anno, nel senso che per alzata di mano, sì, per alzata di mano dice: lo vogliamo Messi? Io, sì, da tifoso direi di sì. E a parte che invece non è il suo anno Messi, aspetta, diciamo. Risposta sorprendente. E io invece, da tifoso, non gestore, amministratore, non concordo affatto, perché avrebbe un costo. Costerebbe troppo. Bravo, vedi come cambia il tifoso. Ma lei è più lucido che tifoso, devo dire. Sì, giustamente, sì, sì. È nella parte. A parte gli scherzi, Gianluca, un'ultimissima cosa, veloce, voglio chiedere. Ma con quella maglietta lì, Jenny La Carogna non doveva entrare proprio nello stadio, secondo me, o no? Ma guardate, entriamo in un campo minato sotto questo punto di vista. Vi faccio, cioè, andare in uno, non è reato, credo, però andare in uno stadio con la maglietta che inneggia a uno condannato per la morte di un poliziotto, una persona innocente, Raciti, che senso ha farlo entrare? Anche ma i tifosi, guardate, avrebbero dovuto non farlo entrare. Ma guardate, vi faccio un esempio stupidissimo. A Taranto qualche tempo fa ci è stato vietato l'ingresso allo stadio con una, sì, maglietta molto più innocua, che è Respiriamo Taranto, che è uno slogan, certo, che voleva essere un connubio, ecco, tra l'amore dei tifosi per la maglia e le problematiche ambientali di questa città. Chi è che l'ha vietato? Ci è stato vietato dalla questura. E addirittura avevamo un accordo con l'allora società per sponsorizzare proprio la prima squadra in, sì, una partita importante con la Ternana. A 24 ore fu vietata la fissione, diciamo, di questo sponsor. Questa è l'Italia: vietare la maglietta Respirare Taranto e consentire quella a favore di Speziale. Questa è l'assurdità, secondo me, assurda proprio dell'Italia. Grazie e sostegno. Grazie. Grazie Gianluca Sostegno, vicepresidente della Fondazione Taras. I tifosi che rilevano, almeno adesso hanno una quota, la società calcistica del Taranto. Ci fermiamo, torniamo tra poco. 800 24 00 24, tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. E allora, ancora un paio di ascoltatori. Fulvio dalla provincia di Roma, buongiorno, benvenuto Fulvio. Buongiorno. Buongiorno. Che ci dice? Allora, che si può fare senza santi da pregare? Infatti io sono direttore di una cosa che si chiama il Festival della Complessità. Basta cliccare su internet. Il Festival della Complessità. Oddio, ce ne sono tanti di festival, questo mi mancava. Ma è tratto dal libro di Waldrop? No, assolutamente no. Ah, no, perché c'è un libro famoso festival, che si chiama Complessità, va bene. Sì, ce ne sono tanti di libri famosi. Comunque, noi abbiamo fatto questa cosa mettendo insieme 43 associazioni, istituzioni, personaggi vari, tra cui il Maxi di Roma, la Città della Scienza di Napoli, il Centro Moren di Studi sulla Complessità di Messina, 5 università. Ma sta camminando in salita, che la sentiamo in affanno. No, sono emozionato forse. Ah, va bene. Senta, però Fulvio, in tre parole, il concept... Abbiamo messo in campo 194... Sì. Sei impennato adesso, Fulvio. Fulvio, tutti questi eventi, sì, ho capito, però il concept di questo festival, cos'è? Cioè l'idea di fondo, in tre parole, qual è? L'idea di fondo è di cambiare ottica nel guardare il mondo e guardarlo in base alla teoria dei sistemi, il che ti permette appunto di fare una cosa come quella che abbiamo fatto noi, mettere in rete una serie di persone, sì, rinunciare a chiedere fondi ai santi, cioè vabbè, ma questo però lo fanno anche altri festival. Io volevo sapere l'idea legata alla complessità, cioè il vostro specifico, l'idea della complessità, perché è interessante. Il nostro specifico è quello appunto di considerare una famiglia un sistema complesso, un'azienda un sistema complesso, e di adottare di conseguenza anche approcci di gestione basati su alcuni principi che sono totalmente diversi da quelli a cui siamo abituati. Tanta curiosità intorno a questa idea, ci dica solo dove e quando, così poi ci salutiamo. Dove? Sono 23 città. Appunto. Quando? Allora diciamo quando, facciamo prima. Dai primi di maggio, io oggi sono a Carpineto, che è un piccolo comune vicino a Roma, per una conferenza, e ci saranno film, visite guidate. Direi che è complesso anche il programma, è molto complesso. Grazie, grazie, mi sembra ottimo, mi sembra coerente con col titolo, grazie. Davide da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie dello spazio. Quanto vorrei un festival della semplicità, della banalità, delle cose facili. Ecco, anche questo ogni tanto ci manca. Con un programma semplice, che uno dice a Roma alle 15, adesso. Sì, certo. Allora, me l'ho pensato peraltro, ma sì, mi fermo un attimo, ecco. No, volevo fare un intervento per quello che riguarda il problema di sabato scorso a Roma, no? Ora, sulla maglietta di Speziale, Speziale, su uno che prende un'arma e spara, cioè a me sembra anche superfluo parlarne, no? Di che stiamo parlando. Da un certo punto di vista, sì. No? Però voglio ricordare che in alcune manifestazioni dei No Global, eccetera, ci sono 100.000 persone che inneggiano a Nassiria, no? Sì. Per non parlare che in Italia c'è una sala del Senato dedicata a una persona, ahimè, purtroppo che non c'è più, ma che è morta in circostanze in cui tentava a sua volta di fare qualcosa a un carabiniere. Carlo Giuliani. Sì. Ora, il problema, quindi, io credo che non sia io credo che la parola calcio, nella morte di Gabriele Sandri, piuttosto che quello che è successo sabato, c'entri veramente poco. E se non riusciamo, almeno secondo il mio punto di vista, a capire che è sociale il problema, si parla di Inghilterra. In Inghilterra non hanno risolto un bel niente. In Inghilterra hanno portato gli stadi a prezzi che si può permettere una certa fascia sociale in su, sono soltanto abbonati con abbonamenti pluriennali che per farli devi pagare migliaia di euro se fossero in Europa di sterline, quindi hanno tagliato una classe sociale di quelli avvelenati. Va bene, però hanno anche risolto alcuni problemi. Davide, grazie, ma adesso non possiamo andare a ritroso e riaprire tutte le questioni relative al calcio. Noi abbiamo voluto presentare una storia, quella di Taranto, che potrebbe essere una luce in fondo al tunnel, un modello, un'idea. È vista da un altro punto di vista, esatto. Nel senso che nel momento che i tifosi si comprano la società, poi tutta la famosa questione sulla trattativa cambia tutto. Lì è ovvio che la trattativa si fa con i tifosi. La è il momento è però di Inviati Cercasi. Allè. Questa volta battezziamo la cultura. Allora, diciamo le cose con ordine. Inviati Cercasi, parola chiave contest della settimana scorsa era cultura. Librerie, musei, teatri, cinema, di tutto. Dobbiamo qui spiegare che cos'è Inviati Cercasi. Vai. Noi diamo una parola il sabato, per cui voi cerchiamo degli inviati, ovvero delle persone che conoscano delle storie, magari piccole, magari a loro contigue, e che abbiano voglia di raccontarcele, quindi di trasformarsi in nostri inviati. Loro ci mandano la notizia, noi leggiamo tutte le mail di tutti quelli che ce le mandano, ne scegliamo una e il mercoledì investiamo delle persone che ci ha inviato le mail, o a volte più di uno, però tendenzialmente uno, a dire: perfetto, tu sei il nostro inviato di questa settimana. Ti chiameremo sabato e ci raccontiamo racconterai in diretta la tua storia. Intanto ringraziamo Letizia Rossi, giornalista di vipervimercatese.com. Buongiorno Letizia. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Buongiorno. La nostra inviata di questa settimana per quanto riguarda la cultura. Voglio ringraziare però anche tutti quelli che in effetti ci hanno scritto in queste settimane, sono tanti, e che poi la loro notizia non è andata in onda, perché ci sono ovvio, anche quelli, certo. Insomma, bisognerebbe ringraziarli, magari dalla prossima volta lo facciamo. Ma stiamo facendo un bel bacino, perché in realtà diciamo, perlomeno il mio posto sicuramente salterà, nel senso che con tutti i giornalisti, i nuovi inviati, gli stagisti vero che hai trovati, secondo me il mio posto è veramente traballante. Letizia ci ha segnalato questa notizia bellissima: Carnate inaugura la biblioteca con una catena umana di libri, ed è una cosa che è successa la settimana scorsa, sabato scorso forse, Letizia? Domenica pomeriggio, sì. Allora, voi era un test per vedere se eri attenta, ovviamente. Sì, esatto. Nel comune di Carnate c'era da trasferire una biblioteca da locali, diciamo, di mezzo servizio di bassi fondi a locali nuovi. E oltre a essere bella la notizia in sé, anche il modo che è stato veramente così originale, che ci richiama a cose epiche. Esatto. Letizia, racconta. C'era appunto questa necessità, che oramai era una necessità decennale, di trasferire la biblioteca, che si trovava in spazi molto angusti e anche difficili da raggiungere per tutti. Hanno colto l'occasione per mostrare come il lavoro di trasferimento della biblioteca abbia comunque coinvolto anche tantissimi volontari, e l'iniziativa di domenica è stata un po' l'ultima dimostrazione. C'è una catena umana di circa 300-400 persone, ha fatto passare di mano in mano, attraversando il paese, gli ultimi 100 libri che erano da trasferire dalla vecchia alla nuova sede. Quante persone, Letizia, c'erano? Tra le 300 e le 400. Beh, insomma, Carnate non so quanto è grande, però... Sono 7.000 abitanti circa. È un numero, quindi... Tanto la percentuale è altissima, devo dire, perché il 5% mi sembra... Ma tu, Letizia, eri tra quelle persone o eri inviata per Vimercatese a fare foto? No, ero a guardarli, ero come esterna. Certo, come giornalista, cioè al bar a bere il cappuccio a fare delle foto. No, sto scherzando, ovviamente. Devo dire che la notizia è bellissima, anche perché richiama un po' una cosa che a me mi raccontavano i miei genitori, l'alluvione della biblioteca a Firenze, con tutti questi ragazzi che si passavano i libri, ovviamente bagnati, rovinati, e si li passavano con estrema delicatezza, e si vedevano tutti questi titoli di libri o pezzi di libri. Quindi almeno io, quando ho visto questa foto qua, devo dire che mi sono commosso, e mi sembra molto bello anche proprio questi libri che fisicamente passano di mano in mano tra tutti i cittadini della stessa comunità, che poi può usufruire di questa biblioteca. Quindi complimenti. Una curiosità, Letizia, su questa nuova biblioteca che finalmente è stata aperta, com'è adesso? Allora, adesso è occupa quella che era una ex mensa scolastica, che in realtà non è mai stata usata come mensa, si trova tutta al piano terra, quindi è facilmente accessibile a tutti, perché la vecchia si trovava nei locali del seminterrato della scuola elementare. Scusa Carlo, dico, quindi adesso scriverete fuori "si mangiano libri", direi. Sì. E il comune avrà investito un po', cioè si investe ancora per mantenere le biblioteche, siccome adesso si parla solo del fatto che ci sono gli ebook, tutto sul digitale, i libri non servono più a nulla, invece no, non è vero. E le biblioteche, diciamolo, sono anche luoghi dove si va, ci si incontra. Però hai fatto un bellissimo esempio, Alessio, perché posso dire che per trasferire invece gli ebook bastava fare un click e tutti si spostavano di là. Però le biblioteche hanno anche questo valore, un valore proprio anche di socialità, di luogo di incontro, e quindi insomma il comune ci ha investito a Carnate, ci ha creduto. Esatto, anche perché appunto uno dei problemi che aveva la vecchia biblioteca era quella di non poter essere usata anche per iniziative culturali, mentre questi spazi nuovi riescono comunque ad accogliere più facilmente il pubblico. L'investimento in realtà non è stato enorme, perché si è trattato di lavori per riconvertire dei locali che erano abbastanza nuovi, perché appena ristrutturati, in una biblioteca. Inizialmente dovevano essere circa 60.000 euro, che sono diventati poi 90.000, perché hanno avuto bisogno di intervenire anche sulla sicurezza. E siamo molto contenti di questa notizia di Carnate, e ti ringraziamo, Letizia Rossi, perché sei stata forse veramente una inviata, a me è piaciuta molto. Anche a me, mi sa che prenderai presto il mio posto, anche perché tra l'altro io devo traslocare, quindi se mi dai i numeri invece di queste persone, io sarei molto felice di avere 300 persone che si passano i miei libri e cercherò una casa molto vicina a quella dove vivo adesso. Grazie Letizia. Grazie, grazie mille, grazie, buona giornata. Ricordiamo che poi noi il migliore inviato lo premieremo con col mio posto di lavoro, no, con un soggiorno offerto dagli amici di EcoTube, un soggiorno responsabile, quindi una vacanza. Insomma, ah, giusto. C'è anche un piccolo premio, questo lo possiamo dire. Dove io tra l'altro cercherò di eliminarli questi, perché sono i miei competitor, quindi io sarò anch'io presente in questa struttura. Esatto. O tu entri nel contest oppure non lo vinci il premio, te lo dico. Magari vinci il posto, ma non il premio. Certo, premio no. Giusto. Grazie Letizia Rossi, bella questa di Carnate. Per me, a me è entrata nel cuore questa notizia. Molto, qua. Molto bella. Si è capito, no? Sì. Sì, sì. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco. Esco, esco, esco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid. Quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Restiamo in Lombardia per l'ultima notizia, che è una segnalazione, un invito, un appello che arriva dalla cooperativa sociale Cascina Burattana, che opera a Busto Arsizio, in una cascina che si chiama appunto Burattana, i cui terreni sono già a sua disposizione, ma la cui vera e propria cascina, un edificio storico in rovina, il comune non riesce a gestirlo, e queste persone di questa cooperativa chiedono al comune di darglielo in gestione, perché loro sono stati capaci di rianimare i terreni con una produzione agricola che adesso ci racconteranno. Vogliono gestire la cascina in Tempi di Spending Review, tra l'altro forse per il comune può essere anche utile. Una gran notizia. Smettere e dare in gestione a chi lo sa fare. Abbiamo convocato Enrica Cagnoni della cooperativa Cascina Burattana. Buongiorno Enrica. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qua. Buongiorno. Che voce squillante. Grazie. Intanto complimenti perché, per questa attività che fate. Voi che cosa è che fate esattamente su questi terreni? Ma su questi terreni noi facciamo agricoltura biodinamica, che va oltre l'agricoltura biologica. Significa che non utilizziamo assolutamente nessun tipo di preparato, anche quelli ammessi dal disciplinare dell'agricoltura, sì, biologica, ma soltanto preparati biodinamici. E cosa producete di bello? Ma guarda, in questo momento io sono in cascina e ho davanti a me quattro tipi di insalate. Non ci faccia venire troppa fame, che svegli dalle 6. L'orario comincia a essere quello della colazione. Abbiamo già finocchi, abbiamo già in campo pomodori, melanzane, abbiamo dei cavoli che sono... Che meraviglia. E avete in gestione questi terreni che sono di proprietà del comune? Sì, fino ad ora abbiamo in gestione proprio una piccola parte di terreno. Attualmente abbiamo in gestione 2,5 ettari, sì, però coltivabili sono 1 ettaro, perché con agricoltura biodinamica siamo legati anche a un disciplinare che ci vieta l'uso di determinate aree e oltretutto uno di questi terreni che ci è stato dato in affitto, abbiamo appena scoperto che c'è un gasdotto che lo attraversa esattamente in diagonale e non sappiamo neanche a quale profondità. Ai, però voi questi prodotti li vendete, cosa fate, dei mercatini, come funziona? No, noi abbiamo una vendita in cascina il venerdì regolare, pomeriggio, perfetto, il sabato, la domenica, regolare. Quindi siete riusciti a mettere in piedi questa iniziativa che ha molto successo. Adesso, noi visto che la cascina del 600, piedi. Sì, Enrica, abbiamo poco tempo per chiudere. Il vostro appello però adesso è allargare l'attività, perché c'è la cascina, se abbiamo letto bene dai giornali, che sta andando un po' in malora. E voi dite, beh, allora datecela in gestione a noi. Guarda, è una spinosa questione, perché sì, noi sono anni che chiediamo al comune la gestione, la titolarità su tutti i terreni, perché la cascina ha 13 ettari di pertinenza. Pensate che bellezza sarebbe se fosse tutta gestita così. Esatto, anche perché noi comunque abbiamo proprio questo desiderio di riprendere la coltivazione in un certo modo, di farlo. Giusto, Enrica, purtroppo dobbiamo chiudere. Avete il desiderio, ma avete anche le capacità, lo avete dimostrato. Il vostro appello ci è piaciuto, lo abbiamo accolto, vi abbiamo dato spazio. Complimenti. Complimenti, grazie. Questa era l'iniziativa. Grazie. Cascina Burattana, dateli a trovare, sosteneteli se potete in qualche modo. Noi dobbiamo salutare, è il momento dei saluti, ci sentiamo naturalmente poi domani. Certo. Con la puntata di domani, grazie. Buon ad Andrea sabato. Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca. Il nostro splendido Giorgio De Luca. Autore, redattore, Pietro La Corte, regia, splendido anche lui, splendido splendente, abbiamo ancora un po' di secondi. No, ci sentiamo e vi domani. Salutiamo. Buona giornata da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao, a domani.